Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Benvenuti ad Ondivago. Ondivago, con l'accento sulla I, è un programma che vuole percorrere in modo insolito alcuni itinerari culturali, scoprire, porre quesiti, risvegliare i movimenti dello spirito critico, proporre argomenti e questioni culturali alla radio. In una società immersa nel consumo e nell'immagine è già una sfida. E questa è una sfida che vogliamo condurre anche con divertimento e in cui le nostre parole sono solo un inizio. Gli ascoltatori infatti potranno partecipare commentando le nostre puntate sul blog o su Facebook, dove trovano un gruppo dedicato. Un grazie per aver creduto in questo esordio e va alle radio che per prime ci trasmettono, che sono Radio Valdarno, web radio italiana, il cui impegno comunitario e civile è un segno caratteristico, e dal Belgio Radio Prima, radio italiana FM di Liegi e provincia, che con entusiasmo ha accettato la nostra proposta. Speriamo le nostre parole possano far sentire agli italiani all'estero la vicinanza al loro paese da un lato, e dall'altro l'appartenenza ad una comune cultura europea. Ondivago si muove con fare europeo. La nostra redazione ha sede a Torino, ma possiamo contare su collegamenti in varie parti d'Europa, in particolare con Anna Raffaella Farao, che si trova a Parigi e che sarà corrispondente di Ondivago dalla capitale. Ondivago è nato come programma letterario, 12 puntate che sono state trasmesse nel corso dell'anno a Bruxelles, per poi espandere i propri interessi anche alle arti, all'architettura e al design. Quindi un forte legame con la poesia e con la cultura francofona continueranno a segnarlo. Anche se non smetterà di ondivagare e di interessarsi a più cose senza paura e cavalcando le onde della diversità. Piero Gobetti diceva che il vero nemico della libertà è l'unanimità e nel nostro lavoro vogliamo rispettare questo principio dando voce a opinioni diverse. Ma entriamo ora nel tema di questa prima puntata, che è l'arte contemporanea. Sì, l'arte contemporanea. Come scriveva Nannucci nelle sue opere al Neon, tutta l'arte, a ben vedere, contemporanea. Ma per arte contemporanea qui si intende quella produzione artistica che ha la pretesa in qualche modo di rappresentare il proprio tempo, o che si ritiene possa rappresentare il proprio tempo. Quindi da un lato abbiamo gli amanti dell'arte contemporanea, cioè quell'arte che mischia innovazione, provocazione, sicuramente che ha a che fare con la moda e col collezionismo, e dall'altro abbiamo coloro che indicano quest'arte come una sorta di spazzatura. Si tratta di oggetti rotti o recuperati, non è altro che spazzatura. E quanti di noi hanno sentito appunto queste critiche davanti ad una vetrina, alla vetrina di una galleria o all'interno di una fiera? Entrambe queste posizioni sono sicuramente semplicistiche, ma è vero che ci sono opere come quelle di Maurizio Cattelan che comunque aprono e creano una discussione. Prendiamo ad esempio alcune opere dell'autore citato di Cattelan come Novecento, che è un cavallo in tassidermia appeso al soffitto, o Im, fantoccio col volto di Hitler. E poi ci possiamo allargare ad opere anche che arrivano a delle quotazioni stellari come quelle di Hirst, che presenta uno squalo intero, in formaldeide, quindi che noi ritroviamo chiuso e inscatolato in questa dimensione, per poi arrivare alle opere che tanto hanno infastidito Versailles. È chiaro che le categorie classiche nel caso dell'arte contemporanea saltano, ma si tratta di arte, di pubblicità o peggio ancora di truffa? Per chi ha imparato a dipingere ad olio o fare scultura con le proprie mani, sicuramente è un argomento duro da affrontare. Si richiede una presa di posizione filosofica o meglio estetica. A questo punto lo chiediamo agli ascoltatori. Attraverso il cavallo appeso al soffitto di Cattelan vi chiediamo se si tratta di arte oppure no. Ci potete rispondere su ondivago.blogspot.com o sul gruppo dedicato su Facebook. E questo è un periodo molto intenso per l'arte contemporanea e un periodo in cui si alternano le fiere come Frieze a Londra, la FIAC a Parigi la settimana successiva e a novembre Artissima a Torino che Ondivago seguirà. Sono queste, quelle citate, le grandi mostre di arte contemporanea sulla bocca di tutti. Provando oggi a sentire al telefono la FIAC e alcune gallerie abbiamo percepito frenesia, ma anche un po' di resistenza al dialogo. La stampa parla poi, la stampa di Torino, parla poi di Londra come di una mirabolante scena in grado di affrontare la crisi, quindi di una grande fiera con VIP, party e vari contesti, più o meno allettanti. Noi vogliamo affrontare questo tema, ma anche cominciare a parlare con alcuni di questi protagonisti. E appunto il primo protagonista invitato che abbiamo contattato è Coniglio Viola, quindi un duo nato a Torino che si è imposto per il suo eclettismo, che può anche esprimere la sua visione dell'arte contemporanea. Abbiamo il piacere di intervistare in questa prima puntata della nuova serie di Ondivago Coniglio Viola, un'esperienza artistica unica che parte da Torino. Il duo Coniglio Viola smuove gli ambienti dell'arte contemporanea degli ultimi anni con degli attacchi e con delle azioni dadaiste. Ad esempio, assalta la Biennale di Venezia con un gommone sormontato da un grandissimo coniglio gonfiabile. La sua prima mostra importante avviene nel 2009 con una antologica che si tiene al PAC di Milano e ora Coniglio Viola si appresta a nuove avventure. Noi abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo al telefono durante un percorso in velocipede e sentiamo cosa ci dirà Coniglio Viola. Ma insomma, te l'ho detto, sono malato io. Coniglio invece sta abbastanza bene. Adesso il coniglio attualmente è formato da te o è di nuovo è un duo, è un individuo? Chi è Coniglio Viola? Ah, guarda, questa è una domanda a cui non so proprio rispondere. No, in realtà hai già risposto, perché nella tua incertezza hai già dato una risposta, ma a noi direi va più che bene. La provocazione di questo primo... Sto prendendo una bicicletta, quindi... Sì, rientra nell'ordine delle cose, a noi va benissimo, speriamo solo di non disturbarti troppo e di causare incidenti. No, anzi... Migliora la stabilità. Incidenti, sì. Migliora la stabilità, perfetto. E ti volevo chiedere, noi abbiamo lanciato un po' questa pietra, che è una pietra un po' così, che lascia il tempo che trova, ma arte contemporanea, innovazione o spazzatura? Spazzatura, assolutamente. Spazzatura? Molto più vicina alla spazzatura che all'innovazione. Tutto ciò che è residuale, un po' quello che avanza, tutti i sensi sono gli avanzi, no? L'arte contemporanea, più o meno, da tutti i punti di vista. Sono avanzi già da... Non vuol dire che non, nella spazzatura non possa trovarsi qualcosa di sublime, però tendenzialmente il luogo dell'arte contemporanea è molto vicino proprio al luogo dei residui, degli avanzi di cibo, di carte igieniche, insomma quelle robe lì. Quindi quegli assemblaggi che arrivano dall'avanguardia del Novecento arrivano nel dopo, diciamo così, a un Tony Craig, arrivano fino ai giorni nostri, insomma, in qualche modo, questi avanzi. Dimmi. Avanzi del mondo, ecco, al di là della... Aspetta, può essere che in questo momento la voce si perda? È possibile? Dal tunnel che sto attraversando? Stai andando benissimo, meglio delle aspettative. Che quelle aspettative avevi? Nessuna. che rispondessi almeno. Sì, no, non era detto, però ti avrei fatto una non intervista in ogni caso. Sì, in ogni caso. No, quello che ti volevo chiedere, a parte così le battute, non ti sembra, oggi chiamando anche la FIAC e altre gallerie che si stanno preparando, chiamando la FIAC, la mostra d'arte contemporanea, sì, che si tiene a Parigi, altre gallerie partecipanti. C'è Frieze adesso anche, eh? Sì, c'è Frieze questa settimana, di cui si parla sulla stampa proprio oggi, e ci sono altre. Come vivi tu, visto che sei ormai ampiamente a contatto con questo mondo, come vivi il rapporto con questo ambiente? Ecco. Ma guarda, in realtà le fiere non partecipo adesso da ben 2 anni, uh-huh. Perché sto vivendo la fase più piratesca della mia avventura, uh-huh. Indipendente forse, uh-huh. Una fase insomma anche di messa in discussione di alcune cose, di riformulazione, eccetera. Quindi hai mollato? No, vabbè, una serie di robe. In questo momento non sto lavorando con gallerie, quindi chiaramente non sono neanche nelle fiere. Anche se le fiere mi piacciono molto, mi divertono molto e sono molto rappresentative. E quali ti divertono di più, però, se posso farti la domanda? Quando partecipo alle fiere mi diverte sempre moltissimo, sì, perché è uno show. Quali fiere mi piacciono di più, ma non te lo so dire, poi ci dipende anche dalle edizioni. Insomma, sono quelle che poi che più interessanti, sono universalmente riconosciute, ma è anche, non è soltanto data la qualità del lavoro, ma un po' anche dall'atmosfera che si crea, perché certo non si può pensare di conoscere esempio i lavori di un artista in una fiera, ma di avere qualche spunto, e poi l'insieme, no, che rende un evento interessante, cioè si configura più in quanto evento, in quanto tale, mi piace, in quanto luogo di incontro, ecco. Cosa ti sentiresti di dire a chi? È il mondizzaio, insomma, no? Sì. È luogo di riciclaggio globale, ecco, mm-hmm. La fiera è per dentro l'immondizia. Stesso negativo, cioè quando ho detto che l'arte è molto vicina all'immondizia, è vicina all'immondo, non è solo il senso negativo, mm-hmm. Naturalmente sia in quello negativo che in quello positivo è più difficile forse percepire nel termine, ma i concetti per me di immondizia anche sono assolutamente vicini. Noi abbiamo percepito questo dualismo che ti però forse alcuni almeno che sono restii ad avvicinarsi a questo mondo è quell'atteggiamento di sufficienza che c'è secondo me in alcuni operatori del mondo dell'arte contemporanea. Non ti pare che questo atteggiamento sia un po' così da superare? Nei confronti dell'arte? Nei confronti dell'alterità, non nei confronti dell'alterità, di ciò che non è quello. Sì, cioè, quindi più che di sufficienza, anche di autosufficienza, purtroppo è così, è vero, perché è un mondo pericolosamente autosufficiente, quello dell'arte. Infatti è un mondo dove, tutto sommato, anche nel senso negativo, si trova molta più immondizia che in altri, perché non ci sono molti parametri di giudizio sindacabili, ecco, le scelte non sono sindacabili nell'arte, no? Nessuno può dire, cioè, autenticamente che schifo quell'opera, se è collocata e scelta bene potrebbe essere un capolavoro facilmente. Ci può essere solo un lato, scusa, ci può essere solo un lato sindacabile che poi il giudizio del mercato magari, però. Sì, certo, chiaro. Che nel sistema, nell'ordine del sistema. Abbiamo rispetto ad altre discipline artistiche, parametri obiettivi, come può essere ad esempio il riscontro del pubblico. Diciamo mancano in questo caso. Non entriamo troppo nel. Molte cose più interessanti nel teatro. Sì. Nel teatro contemporaneo, che non nell'arte. E vedo che bene o male c'è più. È più congruo il successo della critica, insomma, in altri ambiti, cioè la critica effettivamente premia normalmente ciò che va premiato. Mentre il sistema, diciamo, dell'arte contemporanea è un po'. Ovviamente no, perché sfugge a qualsiasi meccanismo di controllo, cioè assolutamente. C'è qualcuno che ha parlato di Sboom anche dell'arte contemporanea, è uscito un libro la Aleana, sì. Lo so soltanto perché è una mia amica. Però, condividi questa di arte contemporanea. Ma non ho letto il libro perché poi non sono riuscito a farlo regalare. Vabbè, comunque è una visione tra il critico e l'apocalittico della situazione. Io ti rimbalzerei la palla invitandoti a raccontare qualcosa dei tuoi. Ah, ecco, sì, invitiamo, intanto si sta per celebrare una Consiglio di Party il 6 novembre, quindi proprio la notte, sì, sabato di Altissima, al Museo delle Scienze, sì, in collaborazione con gli Art Museum, Musica Novata, Club Club, si chiama Conigliissima, quindi sarà una festa imperdibile. E in cosa prevede, o è una cosa sorpresa? È una festa, uh-huh. Una festa, c'è uno special guest che è il coniglio pirata, che non è mai quello che ha attaccato la Biennale di Venezia, che non è mai venuto a Torino, sì, cioè, o meglio, c'è venuto solo sotto forma di zaino, uh-huh, mai nella sua come dire, non mi viene la parola, identità, nella sua pietza, diciamo, volevo dire anche, ci sarà lui e poi altre sorprese. Stiamo preparando un po' di cose, insomma. Va bene, allora invitiamo. Merito torinese. Possiamo rimandare al tuo sito per quelli che vogliono scoprire meglio tutti i tuoi percorsi così eclettici che a noi piacciono tanto. E allora ti lasciamo pedalare verso quale meta non si sa. E speriamo che così sia, non ci troverai la meta giusta o non troverai la meta giusta a seconda dei tuoi desideri. Che non svelo, giustamente. Passiamo ora a Francesca Canfora, che ci parla di Paratissima, manifestazione artistica che si tiene a Torino, in concomitanza con la Fiera del Lingotto, e che è aperta ai giovani artisti. Paratissima si inserisce in quelle manifestazioni collaterali alle grandi fiere, in qualche modo. Esattamente. Paratissima si svolge in contemporanea ad Artissima e vuole essere un evento off, mentre Artissima, che era dedicata proprio strettamente all'arte contemporanea a Torino ed è anche un po' elitaria, diciamo, noi invece ci apriamo, diamo voce agli artisti giovani, ai talenti emergenti, a chi insomma non ha ancora uno spazio per esporre. Avviene in questo quartiere che ormai non è conosciuto anche in tutta Italia, che è San Salvario, quindi c'è questa, sì, e c'è questa interazione che si crea con il luogo vissuto del quartiere. Forse tu puoi spiegare meglio come avviene. Esattamente, Paratissima convive strettamente con San Salvario, perché San Salvario, il quartiere, diviene esso stesso il luogo espositivo. Gli artisti espongono in tutte le attività commerciali, negozi, locali, ristoranti, qualsiasi spazio diviene proprio una location espositiva e può usufruire di una piccola mostra per quelle 5 giornate che vanno dal 3 al 7 di novembre. Quindi la parte interessante è questa vitalità che si crea, questa atmosfera positiva anche che abbiamo sperimentato. Ho visto sul vostro sito che anche delle collaborazioni nuove, c'è stata questo concorso per la Panda. Sì, c'è questo concorso per la Panda, molto divertente, questa collaborazione con Fiat, per cui una Panda è stata smontata in 30 pezzi, questo un po' per festeggiare il 30° anniversario di Panda, e ogni pezzo deve essere artisticizzato da un artista personalizzato. Ed è stato fatto un concorso selezionando le migliori idee e poi i pezzi che sono stati assegnati ai diversi artisti selezionati verranno esposti in un container sempre in San Salvario durante la manifestazione. Tu hai già visto i lavori, quindi di questi che sono stati fatti sulla Panda, sono già arrivati dei lavori, quindi tu l'hai visti? Non sono ancora arrivati i lavori, abbiamo selezionato le idee, ho già visto qualcosa, ci sono delle cose divertenti, insomma. Quindi aspettiamo. Da vedere, sì, poi c'è un'altra cosa molto divertente che è sarà un pochino l'evento di punta di Paratissima, la cosa, se vuoi, più bizzarra e più divertente, e che però coinvolge artisti già di fama. Questo progetto si chiama Fresh Art, non so se ne hai già sentito parlare. Ce lo puoi forse spiegare meglio, ho intravisto qualcosa sul sito. Quindi è la versione, allora, diciamo, LTD dell'anno scorso, la versione un po' più selezionata, insomma, della manifestazione, che noi spieghiamo è aperta, insomma, ai contributi pubblici. Allora, la manifestazione vive in pratica dei giovani artisti, sì, dei talenti emergenti, perché poi Paratissima appunto sopravvive e vive grazie a loro, però quest'anno siamo riusciti a coinvolgere anche un po' come padrini degli artisti, sì, che sono già dei nomi proprio affermati nell'arte contemporanea, non però da un punto di vista espositivo stretto di opere d'arte, ma sotto un altro punto di vista. Infatti avremo una mostra che di frigoriferi, questi artisti, 10 artisti che hanno opere in collezione alla GAM, la Galleria di Arte Moderna di Torino, sono stati invitati a riempire questi frigoriferi come di solito hanno il loro frigorifero a casa. E tu mi chiederai, ma perché questo? Perché è un modo di per avvicinare le persone più diffidenti, che magari non capiscono tanto l'arte contemporanea o la trovano distante, ad avere una chiave di lettura verso gli artisti, diciamo una chiave di lettura forse più comprensibile, un dato, un comune denominatore. Un modo un po' per sdoganare anche questo ambiente che forse a volte, appunto, come tu dicevi prima, un po' elitario e anche forse anche un po' antipatico, possiamo dire. Esattamente, esattamente. E in più, a seguire a questa mostra di frigoriferi, tra l'altro questi stessi artisti, di cui tra poco ti farò anche qualche nome, dovranno partecipare a dei pranzi e delle cene di cui dovranno progettare il menù. Questi pranzi e queste cene saranno per 12 persone. E un po' saranno ad invito, come per esempio operatori del territorio di San Salvario, studenti dell'Accademia, troveremo un modo anche per coinvolgere persone che sono interessate a partecipare a questi pranzi e queste scene e quindi a conoscere direttamente l'artista, perché lo scopo è quello, dare questa possibilità a chiunque, che secondo me è una bellissima cosa. Aspettiamo, appunto, invitiamo tutti coloro che saranno a Torino in quei giorni, che saranno molti sia per Artissima che per le altre manifestazioni, a visitare Paratissima e a venire a San Salvario a scoprire questa, appunto, questa manifestazione. Se voglio di fare un salto sul sito, a breve segnaleremo anche le modalità di partecipare a questi pranzi o queste cene con questi artisti, tra cui, se vuoi, ti faccio anche qualche nome. Prego, prego, dimmi pure. Allora, tra i partecipanti ci sono Giorgio Griffa, Marco Gastini, Luigi Mainolfi, tra i più famosi. Avremo anche frigorifero riempito da Michelangelo Pistoletto, che purtroppo però non potrà presenziare al pranzo e alla cena perché sarà in America, a Filadelfia, per una grande mostra, certamente, però avremo il suo frigorifero. E poi tra i giovani, Botte Bruno, Saverio Todaro, Monica Carocci, Luisa Rabbia, c'è anche la fotografa Bruna Biamino, spero di non aver dimenticato nessuno. Quindi che ci saranno, che saranno presenti alla manifestazione. Certo, certo, assolutamente sì. Va bene, allora rimandiamo gli ascoltatori al sito che è paratissima.it, dove potranno scoprire questa manifestazione, e così sarà un'occasione per riscoprire l'arte contemporanea e chi lo sa, per alcuni di loro magari il prossimo anno di partecipare o di venire a trovarci a Torino. Noi ti ringraziamo. Sarai direttamente come artista Paratissima. Certamente, certamente. Ondivago vi saluta. Mi fa ascoltare la fluidità delle sue acque radiofoniche e vi dà appuntamento per i prossimi numeri, in cui affronteremo l'arte anche da altri punti di vista. Anna Raffaella Farao vi racconterà uno dei più bei castelli di Francia, e quindi dall'arte contemporanea passiamo alla storia dell'arte e avremo modo quindi di approfondire altri temi. Inoltre non mancheranno le puntate, sia in italiano che in francese, in cui le due lingue